Ma non ci sono grandi allenamenti, ovviamente c'è molta, molta apprensione, le persone a bordo chiedono perché la nave è ferma e noi siamo in attesa di ricevere istruzioni, speriamo istruzioni positive che ci indichino un porto dove sbarcare queste persone dalle autorità italiane. Ecco, è la prima volta che vi succede una situazione del genere? Ma sono successe altre situazioni in cui ci sono state negoziazioni per definire quale poteva essere il porto di sbarco, ma non è mai successo in realtà che si rimanesse senza una precisa definizione di quale potrebbero essere, quali sarebbero le sorti di dell'imbarcazione di soccorso. Sappiamo che c'è una posizione da molto tempo, da anni, da parte delle autorità maltesi che hanno di fatto solo sempre autorizzato delle evacuazioni per ragioni mediche di singoli individui e quindi sappiamo che di fatto le autorità maltesi non concedono il porto per lo sbarco. Stiamo oggi in attesa di capire dalle autorità competenti dove sbarcare queste persone, perché evidentemente c'è un'urgenza di dare un porto sicuro a 629 persone in condizioni non preoccupanti dal punto di vista medico, ma comunque critiche, in situazione di sovraffollamento e senza la capacità per la nostra nave di mantenere a lungo una situazione di stallo come l'attuale. Sì, avevo letto, mi correggimi se sbaglio, che ad esempio le scorte di viveri valgono solo per 48 ore. Sì, abbiamo scorte per pochissimi giorni e in ogni caso, ripeto, le condizioni di vita in una nave come Aquarius per un periodo di tempo prolungato, per un numero così importante di persone in quelle condizioni, sono condizioni inaccettabili, per cui di fatto attendiamo che questo braccio di ferro si risolva quanto prima per poter portare, non importa se a Malta o in Italia o altrove, per poter portare queste persone in un luogo sicuro. Ecco, invece, come valutate come Medici Senza Frontiere la decisione politica, insomma, di chiudere i porti? Confesso che al momento siamo molto più preoccupati per le conseguenze umanitarie. La decisione è una decisione appunto di negoziato con le autorità maltesi che da questo punto di vista ci preoccupa essenzialmente per quelle che sono le conseguenze. Noi in questo momento siamo assolutamente poco interessati a discutere se dal punto di vista del diritto internazionale ha ragione l'Italia o ha ragione Malta. Siamo in attesa che qualunque autorità competente ci dia l'opportunità di sbarcare queste persone in un porto sicuro, quindi non entriamo più di tanto nel merito delle polemiche politiche. Certo, però l'ultima domanda che ti faccio è i cittadini che insomma vivono con apprensione come voi queste ore, cosa possono fare? Ma io credo che ogni messaggio nel senso di chiedere alle autorità competenti, italiane e non italiane, di sbloccare al più presto la situazione per motivi umanitari è un messaggio corretto nella giusta direzione. Questo non ha nulla a che fare il soccorso alle persone con il posizionamento sulle politiche migratorie, sulle problematiche dell'immigrazione. Qui stiamo parlando di persone che stavano affogando, che abbiamo soccorso e che devono avere un porto sicuro, che sia Malta, che sia in Italia, che sia in un altro Stato membro, purché in condizioni appunto di sicurezza e protezione.